Ed erano puri, si mette mano, ne facciamo, guarda, diciamo del centro storico erano quelli più conosciuti, tutta quella gente lì, grandi, non dico a far valore, però non temevano nessuno qui. Dai ragazzi, vi lascio, vado in carica, batterie e ci sentiamo più tardi, ciao a tutti. Ciao, mangia anche da parte mia che non sto mangiando per dimagrire. E forse Pino, l'hai conosciuto a Pinuccio la Cina? Sì, anche Pinuccio Rucchi conosco io bene. Quello si chiama Cabizza, Giuseppe è Cabizza, ma stiamo parlando di due cose diverse. Pinuccio la Cina non era Marco, Pinuccio già se la toglieva la mosca. Già l'ho conosciuto, poverina. E vabbè, ha fatto la fine che doveva fare perché, insomma, non erano le condizioni di poter andare avanti, Non so, una volta hanno fatto una scommessa, non mi ricordo cosa si è bevuto, ma una cosa spaventosa di Campari, mi pare 30, sì, non so quanti, una cosa esagerata. Ma poi era un bravo uomo, Rubatto si chiamava, Pinuccio Rubatto. Sì, già l'ho conosciuto. Bene, ciao Riccardi, ciao, ci sei ancora, buonanotte, tante cose belle. Una volta l'ho visto io a questo qua, cazzo, al circolo degli anziani, a Latteroce, e l'ho messo per una scommessa, e l'ho messo 15 campari sul bancone, ha detto io te devi bere tutti, e se ce la fai ti do 100 euro, che fa pena da un euro già mi dimenticato. A me mi ha raccontato una storia, non so se la conosci, della zona del Monte già ci siete, però Patisseria Muri tu la conoscete? Patisseria Muri tu già la conoscete tutti al Monte, mi immagino. A chi? Mi ha raccontato il figlio, siamo molti amici, per scommessa questo qua di corporatura tipo Pinuccio, grosso, ci ha mangiato 36 pesche per scommessa di lì. Io ho un amico che si mangia 120 lumacconi, cioè, ma non mangio altro, cazzo, 120 lumacconi vuoi mangiati? Avanti, ciao Flavio, buon sentito, compagnia mia, Cettino in Corrix, Gianni doppio rumo, c'è la Riccardino che è andata a mangiare, Marco, Michele e Giovanni che sta facendo qualcosa. Rilanciamo a Michele che è in parcheggio e poi a Marco e poi a Gianni. Ciao Claudio, ben seduto per la prima volta, saluto a Riccardino, buona carica, mi sembra l'ascolto. Avanti Marcolini, vieni tu. Ehi, Gianni, guarda il messaggio. Ecco, magari lo riconosci. Ehi, gli ho mandato la foto di Pinuccio, dai, quando era... Vabbè, stava bene, molto, troppo sovrappeso, Magari sarebbe campato il doppio degli anni, però... Poi, che le piaceva mangiare. Claudio, ciao. Ciao, Pino, buonasera, ben ascoltato. Sì, come ti sta arrivando adesso il segnale? Attentando. Quasi 9, sì, quasi 9. Sì, perfetto, sì, sta funzionando veramente bene, siamo sotto il segno per 80 watt, quasi 120 modulati, se mi sono occupato, ma adesso mi riprendo. 9 più 5, vai Pino. Capo, va bene, l'importante è che tu fai l'accordo bene a lui, tu devi fare l'accordo bene, una volta che sei accordato, che è caldo, parlo, rende. Sì, quello che diciamo, più di 80 adesso non li posso tirare perché c'ho l'antenna che è proprio bassa, diciamo, e di una sola parla l'antenna mi ha detto caldo, quindi sono solo con l'antenna, quindi qualche di me più, si ritrovi. Vabbè, ricordati che ha due possibilità di emissione, una bassa e una alta, quindi puoi mettere bassa potenza e poi quando metti l'antenna bene puoi utilizzare la seconda potenza. No, già va bene, sono contento, meno male che non avete fatto danno. Sì, no, stiamo andando alla grande, 9 più 15, segnale radio Super 5, ottima, va bene, e niente da dire, il segnale, vabbè, tu arrivavi sempre abbastanza bene qua, adesso hai guadagnato tantissimo. Ok, vediamo a Michele, che lui c'ha una stazione, un'antenna forse un po' più bassa, però è in zona più alta di me. Avanti Michele, come l'ascolti all'amico Claudio D'Amuro? Bene, un po' pazzo, lui sicuramente deve aumentare un po' perché stavo usando solo uno. Vediamo un po' Claudio D'Amuro se mi ascolti. Ti ha ascoltato Claudio Michele? Negativo, sì, non so perché sono, diciamo, il corrente acuto e non mi arriva chiaro, quindi ti ha A me mi ascolti sicuramente, penso almeno. Sei in rapporto vedrai con quello. Ok, vediamo Giovanni Bracco, che lui è lo stesso molto in alto. Giovanni, vai tu. Aspetta, adesso lo sto lavorando, porca miseria. Cosa volevi sapere? Come arrivi giù a muro, se tu che sei più in alto di me, anche se magari non hai l'antenna efficiente al 100%. Non lo so, come arrivo? No, vabbè, tu lo stai, no, tu mi arrivi di Santiago 5 circa, radio 4 lo stesso. Antonello Pompugno, lo stesso lui dovrebbe arrivare forte. Vai Antonio. 5.5 mi arriva Claudia, ma c'è un attimo dentro caso. Niente, stai andando alla grande, se riesci con l'antenna a tirarlo fuori, lo vedi. Ottimo, figurati quando ti piazzi l'antenna, tu mica cosa succede lì, dove sei tu. Ok, chi è arrivato qua? Doppio Lumo quanto ti arriva? Vediamo Gianni quanto ti arriva. Io? Ma io sono con 5 watt adesso. Siamo una potenza. Finirà, finirà. Quando ti arriva Gianni doppio Lumo a te, Claudio? Ti ha detto finire, adesso sono attaccato. Va bene, guarda, adesso sono attaccato, lo dico pure. Bene, bene, e io quanto sto arrivando? Io sono più lontano di Gianni, io sono più lontano di Gianni. Ma liscio o recuaro? No, no, recuaro, recuaro. Non tantissimo, in 50 watt però. No, sei fatto giù veloce nel tempo. Tieni presente che io sono in un fosso, Marco, io sono periferia uscita da Peroce, ma in una valle, sono quasi a livello del mare. Oh, però ho fatto giù veloce nel tempo, sì. Cosa? Se potevi fare un passaggio veloce in FM. In FM sì, lo posso fare, però devo praticamente devo staccare l'ampli, perché questo non credo che vada in FM. Vabbè, sì. Così sono con il fatto della radio e basta, eh? Bene, chiara, molto chiara. Più basso il segnale, ma è molto chiaro. Michele, il segnale qua è impennato, il segnale tuo. Perché mi dà più watt qua. Aspetta che guardo quanti sono. Una trentina. Ma io come ti arrivo? Che va a casa fatta ora? Sì, io. Che parla di direttiva col PMR, mi ascolta di direttiva. Sì, già ne ho fatto delle cose. Mamma mia, anche ti non già se lo ricordo. Oh yeah. Va bene ragazzi, dai, che vi saluto. Ora che ho il mic, che devo preparare cosa al bimbo, poi mi preparo per domani, perché domani si lavora, quindi devo prepararmi la roba. Dai. Vi saluto a tutti, eh. Ciao Tino, ciao. Ho capito adesso chi sei. Aspetta, 9.30 ti arrivavo col portatilino. Sai che ce l'ho ancora con la direttiva, ce l'ho ancora a Platamona, corrottore e tutto. Ma fino alla soddisfazione quell'antenna. Ciao comunque Tino, buonanotte, buon lavoro per domani. E domani si riprende, sì, dai, facciamo girare per i saluti, vai Robert. Yeah, ciao Tino, ben sentito, dai, buon lavoro per domani, anche adesso stacco, dai. Ci sentiamo domani per tutti, facciamo riprendere, non so se c'è la FM, Claudio Ramuro, se avanti Claudio ci sei. Spero ben prima di chiudere. Allora saluto a tutti, iniziamo da Claudio Ramuros, ben sentito, buon tutto, ci sentiamo magari in altre occasioni. Saluto un poettino che è già andato via anche lui, e Michele, Doppio Room, Giovanni Bracco, Marco Condor e poi tutti gli eventuali amici qua in ascolto. QRT definitivo da parte mia. Ciao ciao. Ciao, buonanotte. Dimmi Michele. Cosa c'entra per un secondo, Roberto? Via. Marco! Scusate, è arrivato un messaggio, mi sono distratto. Ditemi tutto. Scusa, Roberto Chiuso, sì, ciao Roberto, buona serata, buon tutto, ci sentiamo. Sto usando quel microfono, non è il suo, il DMC507. Vabbè, sempre omologato è questo già. Però in effetti vedo che sale poco la lancetta. Gira gira va meglio l'originale, aspetta. Ma Gianni, scusa, sei in FM ancora? Cioè gli altri sono in AM, sì. Ma c'è in AM? Oh, ma non ti ha detto nulla a me che ce l'ha fatta in AM. Controllo un po', vedi un po' 1, 2, 3, mi ha fatto spaventare. No, adesso sì, adesso va bene. No, io ero in FM. Chi me l'ha detto a me di passare in AM? Non me l'ha detto nessuno. No, perché sì, l'ho sentito, no, perché cosa non ha l'FM? Chiodo al Ginito, confermi, non hai l'FM. No, negativo, no, non è l'FM, non è subito, non è subito, diciamo, per fatto le case, cioè l'FM ce l'ha l'altra volta, perché per adesso non lo posso attaccare, perché non posso mettere in ordine la cucina, diciamo, perché sono in calma, lascio di prima. Ehi, vabbè, sento anch'io adesso, che ora hai? 10:20, dai, poi mi organizzo qualcosa per cenare dopo, e quindi gira chiudo anch'io, dai. Ma su Gigat, che chiudere bastante. Sai, l'aria di mare mi ha stancato. Ma solo si è andato a controllare. No, mamma non può venire così, no. Può uscire in città con me accompagnato, ma non può fare camminate lunghe. Magari la lasciavo in macchina, che aprivo il finestro, ma la prendessi un po' l'aria. Sì, come i cani, me la portavo a Porto Torre, se lasciate due dita d'aria a lasciarla in macchina. No, quando arrivavi al mare scendevi con lì. Il coronavirus, me. Oia, ce n'erano assemblamenti di gente. Guarda, alla rotonda non mi potevo fermare, tutti i parcheggi legali erano occupati e anche quelli dove c'era divieto, tutto pieno. E quindi io sono andato a Pro Torres, comunque sì, ho trovato un posto per la macchina, all'Ancora, però i bar prima, tutti i bar sul lungomare, quelli aperti almeno, c'era fila per pigliarci un caffè, ho detto ma ammazzedevi. Era tutte le parti così adesso, dovunque tu vada, in banca, in farmacia, tutte le parti dal barbiere. Messaggio, dai, fate girare, Michele riprendi. Michele, io non sento più a nessuno, Cosa faccio, me ne vado? Vabbè, non riprende nessuno. No, non ha ripreso nessuno, Michele, sì. Ma Gianni, dimmi la verità, ma tu sei col Galaxy adesso? Sei col Galaxy o con quell'altro? Col Galaxy. Ma è quello alla fin dei conti, siamo riusciti a migliorarlo, sì, mi avevi detto con quella capsula che c'ha quel coso verde o marrone, non me lo ricordo. Verde, ma ti ho chiesto anche un controllo e ho detto che stavo uscendo bene via radio, non ti ho detto come sto uscendo quando era fatto l'altro, ho detto bene già. Ah, ma poi non hai fatto ulteriori migliorie, ok, no, questo mi sembrava particolarmente brillante, questo è tipo Galaxy e cosa, Sadetta o MB più 5? Sadetta. Sadetta, guarda io Sadetta dove lo sento e c'è sempre cristallino, salvo rare manomissioni. Sadetta è bello, se lo lasci originale è bello, questo l'ha fatto Stefano. Stefano Principe, avevo fatto lo scambio, avevo fatto le BB più 5 e avevo fatto questo e non me ne sono pentito, esce molto più forte le BB più 5. Ma a parte non ha vizi di timbrica, capito? Non ha timbriche particolari o metallica o cupa o barattolata, è bello bilanciato quello. Infatti a trovarlo in Sadetta, purché in perfette condizioni, è anche originale, perché tutti stanno a toccare l'elettronica, a cambiare capsule, capito? Alla fine non, a meno che non sia una persona fidata. Scusate, ne approfitto io per salutarvi, si è fatto un po' tardi, diciamo, faccio che ritiro, saluto tutti, saluto Marco, saluto Gianni, saluto anche gli eventuali amici in assenza, sì, io adesso faccio che ritiro, ci sentiamo alle prossime, ciao a tutti. Ciao, ci sentiamo, che va Ginito, buonanotte. Ciao, Claudio Chiodo, Chiodo Arginito, dai, ci sentiamo le prossime. E anch'io chiudo, dai, perché non ho voglia già, sono stanco. Comunque mi ha fatto uno strano effetto usare il baracchino in macchina, molto strano, cioè i segnali vedevi bassi, come ti allontanavi da Sassari, non ero abituato, sono abituato a casa dove siete tutti fondo scala praticamente, quelli con le antenne sul, con le corna sul tetto. Ascolta, ma che antenna stai usando? Allora, in macchina la solita, aspetta, il modello, porca miseria, Midland ML Mike Lima 145, la solita, quella da 1,360 m, c'è cioè io inox e base magnetica da 12, che per quell'antenna è più che sufficiente. Era tutta sporca, mi era in un angolino, tutta pulita, anche lo stilo tutto disossidante, perché era un po', sai, l'acciaio quando diventa brutto, anche se inox poi sì, un po' di robaccia rimane. Diciamo che in trasmissione ci vorrebbe l'aiutino, però no, io non mi fido a mettere lineare in macchina. Poi questo periodo qua di controlli, di, capito, di inflessibilità, meglio non fidarsi. Tornato. Ma che sentivamo lo stesso. Vabbè, però ero nella posizione buona, ero da fermo nella posizione buona, comunque tu e Claudio 8, Roberto tipo 6 e mezzo 7, Giulio 5, Natalino Santiago 0, Radio 2. Cioè, guarda che c'è una differenza abissale, mi, cioè la posizione di Natalino non sembra, però è molto molto disagiata per essere un'antenna verticale sul tetto. Perché è un piccolo, Riprendi Michele, dai, che vi vado bene. Ci è rimasto Gianni. Ehi, amiche. Diciamo che già me la capicchio io. Ho fatto oggi me la capicchio bene. Una cosa? Come segnali, dico. No, ma sicuramente stai uscendo ben bene. Io ho un'antenna di Barramo bene, troccata. Non posso pretendere niente, ma è già tanto che riesco a parlare con voi. Certo, abiti la radio là dove ti ho portato con 140 da sistemare. No, ho cambiato casa, non ci sono più lì. Non mi ricordo, ma eri venuto tu? Non mi ricordo se ero anche passato io. Già sono venuto dietro via Oriani, lì con le donne con la via, dai. Sono venuto, ti ricordi che mi avevi messo a posto 140, che... era sballato di frequenza, però mi avevo messo a posto la frequenza. Sì, già me lo ricordo, mi avevo fatto la taratura che era un po' fuori, sì. Poi capita che ogni tanto si sposta. Io sto usando quello adesso, perché ne avevo altri, ma lasciando tutti quanti fermi, il 140 è l'unico che è rimasto intatto. Gli altri sono tutti andati a farci sfottere. L'850 si è rotto gli svegli. E forse qualche filtro anche, perché mi sa che ho provato ad accenderlo e USB e LSD erano la stessa cosa. E poi c'avevo gli Aesu, il più nuovo di tutti, anche quello lì leggermente disperato, poi è arrivato anche un po' sordo. Si sono rovinati. E niente, questo qui invece è il quarto apparato, questo qui è più vecchio, perfetto. E allora l'ho acceso. No, io c'ho un Galaxy, qui c'ho un Magnum 980, un 3009, poi cosa c'ho? Un Cobra, un Alan 48 modificato, pure Alan 48 normale, il Plus, e poi ne ho tanti, dai, sì. Non so di cosa trattare. Noi baracchini, forse ne ho uno, dovrò averne ancora uno piccolino, uno della Intec, 40 canali, e gli altri li avevo tirati, sono l'MS200 ammurato, mi è rimasto qualche linearetto ce l'ho, sì, il DV2001, quello valvolare, nuovo, si usa anche poco, lo usiamo a platamona, messo da parte, però non ho provato neanche ad accendere, speriamo non si sia rovinato. Si cupa non abito più lì, diciamo che adesso sono in zona pompona, sono più su, più in alto. No, se avessi avuto l'antenna di macchina lì dove abitavo non avrei sentito nessuno. Dove sei? In zona di pompona? Sì. Vabbè, comunque io mi ricordo la casa lì, sono venuto a portarti l'apparecchio e poi sono venuto a riprendermelo, anzi mi pare che a prenderlo li vedo tutti. Attorno alla platanona, te l'avevo volata e poi sono venuto a prendermelo fatto nel 96. Esatto, te l'avevo portato io, ero venuto sotto a casa tua. Sei sempre lì? Sì, sì, io sono sempre lì. Io oramai qua ci sono 25 anni. E io invece c'ero dove sei venuto tu a portarmelo. Fammi pensare un po'. Una quarantina. No. Sì. Perché sono andato a vivere a metà di 10 anni. Quindi. Quarantina d'anni è buoni. Cappagà. Non è vabbè, se si trova di meglio si cambia. Certo, certo, no, ma vabbè, lì stavo con i miei. Adesso invece quasi con mio gatto. Ma è tutta lì la differenza. È una bella differenza. Dove ascolti, caro? Vediamo un po' se avete fatto Marco. Marco Condo! Lo scappo. Eia. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aspetta un secondo. E adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, com'è? Come è forte, lì abbassa. Forte. La radio però, boh, riprova, fai due passaggi. Uffa, va forte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'è un contatto, stavo arrivando a prendere l'apparecchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Bene, va bene. Ok, allora, a posto, va. Sono contento. Già venduto, ma stai usando poco fa. 500 euro secondo te, cazzo, questa 1200 euro questa panica qua a me. Si è venduto, poi ho venduto 500 euro. Che cosa? Metto 57D. Ma perché l'hai venduto, che cazzo? Stai a fare un parato. Perché l'ho venduto e basta. Non me l'ho fatto nulla. Se non mi piace più, ho fatto bene. Non è che mi è stato tenerlo. Sì, non è perché non mi piace. L'ho venduto perché sicuramente è successo qualche cosa. Non posso mangiare, c'era qualcuno in economia che gli ha rotto le scarpe. Esatto, ci sei arrivato. Me, a dove? Come lo conosco Alessio? Ecco perché bisogna avere l'antenna dentro casa. Antone, ma quanto le hanno rotto le palle? Parecchio, la verità, ma insomma va. Tirato dopo le palle veramente, la verità, a un certo punto. Quindi sono mai dato di ossa, mi conosci bene. Quindi, aspetta un secondo, due minuti e sono diventato subito. Per cosa non ho capito, se era per i canali di TV che ci vedono male, non dipendeva da lui nemmeno. E da quando stanno trafficando con quei ripetitori cellulari che ci vedono male, oppure stanno provando frequenze alternative, cosa ne so io. Insomma, il capo ispettore è sempre il baracchino, ho capito, o che antenne il baracchino eccetera. No, l'altro giorno l'hanno visto con l'antenna che ci ha fatto fare la Luca Master, che l'ha messa a fuori, gli hanno detto cosa anche per quello. Fuori dove? Che era antistetica, eccetera. Ma fuori dove l'ha messa, sul tetto? Dove te l'ha messa? Forse terrazzino a Giovanna, la sorella. Però sai cos'è già? Cioè, sia Antonello che Giovanna sono proprietari, a un certo punto gli avrei detto all'amministratore, ecco, amminisci. Ma culo ci fa quello. Comunque sia, come sto scendo, bene o male? 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Allora, qui da me sei cupissimo. Andatoci di Antonello quello, già sto scendo bene. Ok, aspetta, adesso ci sei passati due dietro, come va? Bene o male? Chiaro, va bene, fermo. Va bene, fermo, non c'è da nulla. C'è il pulsantino dietro, è perfetto. Sono mai toccato l'apparecchio, l'ho usato sino 4 volte, 4-5 volte non di più. Figurati tu, questo apparecchio qua. Già lo so Marco. Volevo sentire come esce l'FM, dai, sono curioso. Ok, va. Allora, passiamo in FM, aspetta un secondo che se mi dico come funziona. Vedi. Allora, funziona. No, non è questo. Va bene, FM, è tutto perfetto, sì. Con la radio buona da così, aspetta un secondo, che c'è, siccome c'è un pulsante dietro al microfono originale, suo vergine naturalmente, aspetta un attimo. Guarda un po' com'è, meglio o peggio, uno di te? Come prima, forte, squillante, chiara. Mi sta arrivando a 9,70 attenuato. Beh, siamo attaccati a casa, io la cosa leggera. Ok, vabbè, ti ringrazio, ma così iniziamo l'FM in trasmissione. Non c'è problema. Questo è lo speed CD, non è collegato, grazie a Dio, quindi basta ribattere l'apparecchio. Comunque la tua antenna risulta dietro il mio palazzo rispetto a dove ce l'ho io, quindi non siamo a vista ottica, c'ho praticamente tutto il palazzo tra la tua antenna e la mia. Beh, tu sei dietro, sì, te l'ho anche detto la tua volta, tu sei dietro, sei dove mi hai detto, sei dietro, quindi a un certo punto siamo vicini, sì, ma anche lontani, sì, dove c'è in pratica il bar del come si chiama? Bradino Sassari, perché altro va, e anche il, come si dice, c'è una specie di ospedale per cani, roba leggera, comunque sia. Esatto, e quindi poco aperto, cioè però se l'antenna praticamente vede verso la zona di Porto Torres, se non verso di te, capito? Ok, va bene, là. Ti ringrazio, entro fra poco, 2 minuti. Vediamo un pochettino, Gianni, Marco. Sì, in FM va bene, ma laterale anche con l'apparato non ne parliamo, ancora meglio. Dai, sono entrato a salutare il corretti esecutivo. Dai, sono stanco e mi butto sulla sdraio finché non mi addormento con la TV, ok? Quindi saluto Gianni, se all'ascolto in FM, Michele, Pomponio, Dino, c'è ancora, tutti gli ascoltoni, dai, ci sentiamo alle prossime. Ciao, buonanotte a tutti, ciao. Ciao Martino. Ciao Marco Ivano. Ciao Marco, Vic. Vai già. Bene, dai, saluto a Marco. Vabbè, poi se riesce meglio qua che in AM. Beh, infatti, per quello volevo sentirlo qua, perché la modulazione è strana, sua, non è tanto il microfono. Poi l'AM comunque è un po'... è limitante, anche se noi ci troviamo meglio con l'AM perché ci abbiamo parlato una vita, no? Non c'è niente da fare, io parlavo con gente che mi aveva segnale 1-2 quando stava a Platamona, in AM non li sentivo, in Manda 3 neanche, in FM sembravano a fianco a casa. E poi a me non è che mi dia di più, mi dà 10 volte come li dà in AM. Comunque Antonio, ricordati. Col microfono bisogna parlare, diciamo, fai due, anche tre dita dal mic, e dietro c'è i toni, c'è una posizione in cui esce più cupo e una dove esce meno cupo in AM, capito? Però non mi ricordo qual è la posizione. Però lo si è allontanato. C'è stato un break, se non sbaglio, Giovanni Bracco, facciamo venire avanti, compagnia di Marco Condor e Gianni e Michele, che sono io. Vai Giovanni. Ok, ho sbagliato anche stasera, scusatemi. Ciao, vi saluto comunque. Comunque per il frequenza c'era Fabio, quando lo cerchi io non lo trovo mai, porca miseria. Vabbè, continuate comunque, io rimango in ascolto sperando che questo entri stasera, perché solitamente entra sul tardi. Però dai salutoni a tutti e tre. E allora entrerà fra poco magari Giovanni, già siamo qui. Riprendi Gianni. Ciao Giovanni Bracco, vi sentite anche a te là per dei mesi. Ah, io sono riprendo. No, si è allontanato un attimo. Ma ci lasciamo prendere troppo la cosa, dalla rabbia, vende tutto subito, io non so com'è. E vabbè, se poi gli viene voglia se lo ricompra. Fosse così facile. In effetti, ma com'è il mercato? Sono calati i prezzi o sono rimasti tali e quali? Anzi, sono aumentati, il garage è aumentato. Ho visto un garage, lo stiamo vendendo a 480 euro. Ne ho visto anche a 250, 300, ma questo qui 480, cos'è, speciale? E cosa c'ha? Non c'aveva niente, era uguale al mio, uguale, suo bisogna vedere se è buono come quello che c'è io, che non è mai stato toccato. E vabbè, a volte non vuol dire. Io avevo una radio che non è mai stata toccata, l'ho lasciata ferma 10 anni, accende però non... si è tutta sciolta, no? È diventata sorda, il display si accende a linee sì, a linee no. Secondo me queste nuove radio le stanno facendo con componenti troppo economici, non esiste. Ci vorrei funzionare, voleva solo i punti. Nello Iesu, cioè, non so se ce l'hai presente, il 7.5, oh, mi ricordo, tipo quello di Pomponi, il modello un po' più grande, quello che sta vendendo, non mi ricordo manco la sigla, non ce l'ho qua davanti. No, è diventato un po' sordo, quindi sicuramente si era bruciato qualche transistor, qualche cosa, qualche FET, boh, non lo so, o qualche componente, magari qualche condensatore. E poi il display lo stesso, un pochino, delle microlineette rimangono spente, cristalli liquidi. Succede quando non li usi, poi ci sono dei baracchini che ho lasciato anni senza usare, li ho accesi, funzionano. Io mi ricordo, avevo lasciato una decina d'anni, ma un bel tempo fa, l'LMS200 fermo, quando poi l'ho riacceso l'ho trovato starato in frequenza. Funzionava benissimo, però aveva 4 bande, banda A, B, C, D, no, A, B, C, D, sì, da 50 canali ognuna, ed erano tutte sfasate, infatti in banda laterale non riusciva a fare DX. Poi avevo chiesto a Vittorio Giove, che c'aveva anche lui, mi ha detto guarda che ci sono 4 compensatorini dentro, cercali che ci sono e te li tari da lì. Le avevo tarate e ho ritornato in linea, ma no, solo quello per fortuna. E non ho avuto l'MS200, l'unica cosa che non mi piace è il colore, che è marrone, io il marrone lo uso. Sì. Io non me lo ricordo neanche, sì è vero, era marrone, c'era un po' di argento, marrone, ma era vecchio, cioè stiamo parlando di un po' di anni fa. Io avevo comprato, cos'era? Allora 78 forse. L'avevo comprato da Micchi, vero Umberto? Ah, capito. Lì da quella vacchetta le shoppette. Dopo sì. Quando c'ero andato io c'era solo lui e la tipa che pensava fosse la moglie, invece è andato che la segretaria. No, non lo so. La segretaria in che senso? Segretaria dipendente. Guarda che mi sa che noi tanti anni fa ci siamo incontrati proprio lì all'ingresso, stavamo aspettando che aprisse, mi sembra. Era chiusa ancora, stavamo aspettando che aprisse. Io ero con un altro mio amico CB, ma eravamo piccolini, forse ancora non ce l'avevo la fagliette. E mi ricordo che c'era questo tipo, dove eri tu, ci avevamo scambiato i nomi attivi e forse eri tu. Boh, che se ne ricorda, già andavo anche io lì a prendere antenne per la macchina, tutte queste cose qua. Sì, mi sa che eri tu. Eri magrolino, io ricordo che eri magrolino. Ah, io magrolino non sono mai stato, là non ero io. Io c'ho l'ossatura molto grossa. Sì, già ti ho conosciuto. Però boh, vabbè, eravamo più piccoli anche di età, Ma sono stato sempre un po'. Non di come ciucchi, aspetta un secondo. Adesso sei ritornato tu col tuo super mic. Vabbè, c'è stato l'effettivo 57D, la verità. Quello di prima era, no? Sì, quello di prima, esatto, sì. Ma io c'ho il fratello maggiore di quello lì. Sì, non è tutto. Andare. A posto. Lo conosci l'897D, quello lì? Stazione. No, conosco la verità, comunque. Ciao Fabio. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Qua ci facciamo in FM, siamo tedeschi. C'è una bomba qua, cazzo, ciao Fabio. Qua c'è una bomba di radio e tu te ne devi andare in AM. Ma ci sentiamo tutti meglio qua, a parte che non disturbiamo televisori né niente. Ma qua c'è una bomba, Fabio. Ma me ne volete andare sotto cazzo? Oh, cavolo, me lo secchio. Sotto casa. Ho detto, ve ne volete andare da sotto casa o no? No, siamo lì, sì, quando c'ho più da bere. Quello non è un problema. Caspita, tutti sotto casa siete. Ciao, fra. Arrivo, meglio che arriviamo. Tu sei 9.30. E poi saresti simpatico, mi fa. Vabbè, ma non vuol dire niente, dai. C'è Antonello che è 9.20. L'altro non lo ascolto. Sento che sta parlando, però non lo capisco. Sì. No, a me mi arriva molto forte. Benissimo, Fabio, guarda che ti stava cercando Giovanni. Cappa, Giovanni Bracco. Eia. Ti ha fatto la chiamata dopo pranzo. A meno che lui non mangia a quest'ora, a pranzo. Caspita, finalmente t'ho beccato. Sono Giovanni Bracco, dai. Ascolta. Stasera ti stavo cercando, mi stai copiando innanzitutto. Cappa, che ti copio, stiamo disturbando, forse gli amici sono andati senza break, senza nulla, scusate la maleducazione, senza presentazione, eccetera, eccetera. Giovanni, io dopo pranzo ti ho chiamato, ho fatto un paio di chiamate su 10, ho fatto un po' di beep, e non c'eri. Cappa. Adesso siete CFM, poco fa, per quello non li copiavo, porca miseria. Io avevo incluso M tutta la serata, diciamo che voi uscivate, almeno gli amici poco fa uscivano in FM e gracidavano, non copiavo nulla, poi mi sono accorto che erano su FM. Ho capito. Allora io ti do il numero di Bassa, dai, se no non risolviamo più il problema. Scrivitelo e domani magari mi farò un colpo di telefono, domani mattina, quando ti viene bene, dai, diciamo. Cappa, tutti i figli, io non frequentavo mai il numero, capito? Di persona sì, non c'è problema, il mio numero è pubblico, faccio assistente, figurati, le trovi in giro nei furgoni a volte, immagina. Niente, ma se tu non c'è il numero di... c'è il numero di qualcuno? Non lo so, di qualcuno che conosciamo entrambi. Roberto, per esempio. Roberto, io non ho il numero, però non lo so. Antonio, tu c'è il numero, Antonio Pompugno, c'è il numero di Roberto? Non ti lo riconosco personalmente, devo essere sincero, Non ti personalmente lo riconosco. Ma io c'è il numero di Bassa, ma devi capire, sono su Facebook, sono su giorni di futura, sono ovunque, quindi non cambia nulla, insomma, anche se tu non hai frequenza, scrivitelo. Non so se vi sentite su Good Talk, in privato. Te l'ho capito, perché mi stai dicendo una radio non molto chiara. Io sento tutti chiari tranne te. Vabbè, dimmi pure il numero, dai. Per coppia, dai. 347 11 69 790. Scappa, allora, 398. No, 347 ha detto. Ma che ci sto ricevendo male, porca miseria. Scherzando, cavolo. Ok, l'ho segnato, dai. Adesso ti faccio uno squill. Michele, ben sentito, dopo tanto tempo, sei rimasto da questa. Per far girare. Ciao Fabio Master, ma ci siamo conosciuti anni fa o no? Io non mi ricordo, cioè mi sembra un nome nuovo. Ma non lo so, probabilmente sì. Io ricordo che l'ultimo giro forte di ruota ce l'avevo sul 30, ci trovo anche sul 30, tipo, che so, Daniela, Marcello, Paola, Silvia e Silvia, quella comitiva lì. E se non sbaglio tutti di qualche volta, insomma, hai parlato con noi. Ma di quanti anni stai parlando? Probabilmente sono 25 anni. Allora è possibile. Ah, non mi ricordo io. Fabio Master. Boh, ora hai cambiato modulazione. Beh, forse un pochino, anche se il microfono è questo, poverino, perché non ti dico i corsi sta microfono, l'ho usato per tutto negli anni a venire e l'ho ricostruito 20 giorni fa, l'apparato è lui, anche se l'ho dovuto tutto sistemare, l'antenna invece è cambiata, forse non lo so. Fabio, l'hai copiato questo numero o no? Sì, capo, il numero l'ho copiato, l'ho anche segnato. Appunto, dai, ti faccio una bassa subito, così ci sentiamo e ci mettiamo d'accordo. Mi recupero, ripeto, 347 11 69 790. K 24 3364. Non si danno i numeri di frequenza, l'ho segnato, ma non si danno. Sì, sente Falcone. Danilo Snoopy, tanto mia madre ti ha riconosciuto, ti chiama i carabinieri, 24, 334. Io avevo sentito un solo di numero 69. Che c'è? Mi vuoi dare, riprendo, me ne vado a nanna, che è tardi per me. Comunque mi ha fatto piacere Fabio Massa, vi ascoltate, anche se al momento non ti ho messo proprio, mi ricordo il nome ma non mi ricordo la persona, la modulazione, vabbè, può capitare, le tacce, gli anni sono passati. Dai, ne approfitto per salutarvi tutti, Gianni, Marco Condro se c'è ancora l'ascolto, Giovanni Bracco, Riccardino forse è già andato a dormire, è andato a fare carica, non è tornata. E niente, dai, Pomponio, se mi sono dimenticato qualcuno, salutato al 100%, scappo, buonanotte, sogno d'oro a tutti, ciao ciao ciao. Ciao Michele, alle prossime, grazie di cuore, avanti Antonio Pomponio per i saluti, bianco per me. Ciao Michele. Ciao Michele, mi raccomando, dopo tranquillo, può tornare lunedì. Se era per quello ci vediamo, non ti preoccupare, così invece beviamo un caffè. K di Roger, va bene, dai, buonanotte, statemi bene, ciao ciao ciao. Ciao, buonanotte anche a te, non c'è problema, per quello. Ok, avanti, chi c'è rimasto? Io. Ma poi ho trovato una frusta nera, tu te lo ricordi quanti metri di campo ci aveva la frusta nera? 5,50 metri. Perché mi ha detto 4 metri e mezzo, 5 metri, adesso è 5,50, vabbè. Niente. Adesso provo a piattarla sulla. Che è nuova roba, mi ho trovato attaccata al cassonetto. Sei contento, cazzo, 5,50 metri è. Il cavo di colantella, c'è la base, c'è l'attacco della basetta è totalmente differente, già lo sai, dalle altre basette che fanno, che facevano dopo, adesso, per il momento, comunque sia. Aggancia una staffetta e te la metti al limite naturazio, non lo so, quello che è. No, c'ho la base, la voglio mettere nella base, solo che c'è un attacco strano. Sotto è saldata, capito? Non c'è il perno che entra dentro il buco, capito? C'ha la saldatura, c'ha un, diciamo, una posizione dove mettere i fili e sono saldati sotto. Gianni, controlla che non sia stata modificata per il VHF, perché quelle le modificavano prima. Comunque come metraggio di cavo è quello per il tantonello. 5,50 metri, vabbè. E adesso la provo, sai cosa faccio? Allora blu a casa, se andare la piazza, se no si dà drocca e dollare mossana. Capo, perché l'ho avuta io quando avevo la 127 e il metraggio del cavo è quello lì. Però c'era molta gente che la modificava per il VHF. Ma questa non sembra modificata, il problema è che non c'è il perno sotto, c'è la saldatura fra, aspetta, la mano. Capo, sopra c'è uno stilo di regolazione per il stazionario? No, lo stilo è intero. Come riesco il segnale? Quanto sta arrivando? Poveraccio, perché non te ne vai sotto caso? Che disgraziato che sei, dai, io non è vero. Dai, sempre sei, quanto devo segnare 9, 9, 10, dai, io so con le 5, 7D. Capo, 9,20, sì, puliti, puliti. Ah, ci va bene, dai, ci va contento, ci va quello. Che se mi accontento, già è nulla, da arrivare, da ascoltare sempre 6, 7, da 9,20. Lo so, già mi accontento, già mi accontento. Cavolo, c'è Gianni che è 9,30 qua, e vabbè Gianni è più qua, più vicino, va. Lo so, è da quello che non uso questa panica qua, lo sai che è scatolato. E non lo muovo, quindi, figura di tu. Chi è? Radio, Ce n'è un altro che sta entrando, però non c'è radio. No, negativo, solo un segnale. Fabio sei tu. Fabio sei tu. No, io posso avere anche un po' di radio? No. Ci dovrebbe essere la radio, perché sta assorbendo l'alimentatore. Ma non si sono bene, non c'è problema. Ma che c'è? Sto appunto per salutare, che è appunto doppio rum, Tonino, Pomponio e Fabio. Ci sentiremo domani al limite. Comunque per ora vado in QRP e buonanotte. Ok, ciao Braco, ci sentiamo alle prossime, stammi bene, poi così ti buon tutto, buonanotte. Ehi K, sì, no, non è questa, no, quella che c'avevo io. Io c'avevo un altro modello della frusta nera, era diverso, senza il mollone. Il mollone era, ce l'aveva sotto, però era molto più sottile. Diversa sì, allora deve essere la 27 quella lì, senz'altro. Per la 27 ce l'avevo, sì, era tutta nera, tutta bella grossa e pesante anche era. E io c'avevo lo stilo sopra per regolare il stazionario. Esatto, sì, deve essere una di quelle. Sì, questa è diversa già. E allora non sarà per la 27, tirerà un po'. Boh, falla controllare, non c'entra quello. Ma se era anche per la 27, io quella lì non la conosco. Io l'ho vista, ce l'aveva Claudio uguale, però Claudio mi ha detto che c'è anche per il VHF. Infatti la mia, quella che c'avevo io, si poteva anche modificare per il VHF, però io ce l'avevo per la 27, era una bomba, era quella antenna lì, era pesante, ma uiuia. Perché c'era anche quella caricata, quella grossa con la carica a poco. Che si vedeva, anche se era coperto, si vedeva la carica che girava intorno all'antenna. Esatto. Io c'avevo quella lì proprio, c'avevo. Che bella idea io. Qui non so neanche che fine ha fatto, a dire la verità. Tu? Io la stavo cercando, non era per metterla sulla macchina, capito? No, vedersi proprio. Capo. Vabbè, chi è che vuole entrare senza radio? Gianni, lo ascolti a questo? Sì, già Lecco, lo ascolto, ma sono basso, siccome sono in cuffia lo sento. A Lecco, però non si capisce chi sia. Sì, che ci abbia Lecco l'ho capito anche io, però non capisco chi è, perché non si sente niente. Anche io sono in cuffia. Boh? E vabbè, mentre ti decidi mi bevo un altro po' di cannolo. No, non lo sento io. È quasi 9.40 da me. Allora di dire che bevi qua. Sì, caspita, siamo a posto già. Di dove? Di Jesu o di Sosso. No, negativo, dai. Sento solo il fischio e basta. Basso. C'è qualcuno che è in casa di me che sta... C'è cercato di parlare, ma non ci arriva. No, infatti. Ti stavo dicendo, Antone, perché devo bere quello di Jesu quando abbiamo il canone a buono assorso? Ia, ok. Secondo me lo sta facendo più disturbato. Ah, boh, non lo so già. Ma ti arrivo a te? Sì, ma basso, non è niente di importante. Vabbè, dai. E c'è che parla in AM, capito? Chi vuole parlare in FM, parla in FM. Se in AM non lo sentiamo per niente, quindi passa in FM e siamo a posto. Eccomi. Non c'è neanche... Ah, me lo va. Antonio, non c'è neanche in AM. qualcuno che vuole disturbare, come ha detto Gianni. E io, Fabio è entrato qua, Fabio, dove è Fabio? Sono d'accordo con Gioco 2,7, non ho capito perché, ma questa casa di azienda è allucinante. Ti volevo chiedere, ma quel cavo che hai lasciato staccato la potenziometro, l'hai fatto apposta o me l'hai lasciato a me? La verità no, evidentemente si è staccato da solo. Ci sono tre cavi nel potenziometro, se si è staccato uno vuol dire che salva di dove sia a posto. Sì, ho già visto lo schema, dov'è, adesso glielo ricollego, io non posso provarlo per niente, perché non ho possibilità di accordarlo, purtroppo il mio rosmetrino è piccino, lo usavo per modificarlo a 150 MHz per lavorare con 100 Watt, qui siamo a 1,2 kW, mi fondo tutto, io posso misurare tutto, farlo girare con le tensioni, ho già visto un paio di cose e va benissimo, non c'ha nulla questo apparecchio secondo me, però ci vuole ben altro per provarlo, non la mia stazioncina a baracchetta. Io ho capito che là, non c'è problema per quello là. Scusate, proprio giù, male mi senti oggi? Lo sai cosa c'è, che mi diremo le scatole quando lo fa così, che non ti lasciamo modulare. Stiamo facendo un salotto tranquillo. Ma c'è qualcuno che non sente, no? C'è Gianni, c'è che sta parlando con te, non c'è problema per quello. Ah no, tranquilli, siamo tranquilli, ma... Va, veniamo là, c'hanno per dirci. Allora, tutto bene. Ah, poi con il microfono gli ho cambiato la capsa, non l'ho messa a verde. Davvero? E adesso va bene. Certo, meglio così. Ma lo stai usando adesso? No, questo è saletto. Infatti mi sembrava. No, a me quelle verdi vanno bene. Sono di quei telefoni che usavano ultimamente, dai, della SIP. Lo so. Io telefoni ne ho parecchi di cordless, di cose, mi sa se hanno le vecchie. Boh, non lo so. Io avevo l'MVP5 con quella capsula, poi l'ho dato a uno, mi sono bintuto di l'animo mia, che poi me lo sono dovuto comprare nuovo, la MVP5. Anche quello era nuovo, ma le avevo cambiato la capsula, era una bomba, era. Solo la capsula, io ne ho fatta anche la modifica. No, solo la capsula l'ho cambiato, però usciva così bene, era una meraviglia. No, l'MVP4 ci avevo con la modifica, poi gliel'ho tolta la modifica perché mi dava internata, mi faceva un casino. No, questo qui no, non è fatto internata, esce bene, solo che se lo posso attaccare perché è notte e disturbo. Se li metto le cuffie sento solo una cuffia, invece le Galaxy sento con tutti e due. No, ma io sono un buon microfono, anche su Delta è micidiale. Sì, ne sono anche io su Delta, solo che dove lo usavo la radio, il Connex, se ne è andato da fanculo, se ne è andato. Non so se sono partiti finali o cosa, si è stato zitto e non funziona più. Ma il Connex? Ehi. E cosa fa? Non esce in ricezione o in trasmissione? Nulla, non esce più in ricezione, no, in trasmissione, in ricezione riceve una meraviglia, è tranquillo, non trasmette. Basta che non sia qualche transistor o qualche cosa del genere, come è successo a me nel Galaxy, non l'hanno cambiato, costa 25 centesimi. Il modulatore è partito, hai capito? 10-12, 2SC 10-12. Non lo so, Antone, perché in banda laterale il USB esce, in AM e in FM non esce. No, allora il trimmer, cambia il trimmer, è una cosa diversa. Tranquillo. Vabbè, il team era... la c'è qualcosa di entrare io se è successo anche a te. Cambio il team del AM, capito? Quindi sei a posto. Grazie, finale. Sì, no. Lo farà chi ce l'ha in mano. L'ho messo in mano a un amico. L'ho messo in mano. Ciao Tonino, buonasera. Buonasera, come siete in FM? Ma tu e poco fa, in banda. Ma è bene se ti guardano la televisione di Max, poi. Ho acceso adesso. Ah, capo, no. Che c'era uno, sembrava che non usciva di radio. Vabbè, no, no, non per altro. Comunque. Io Gianni e Antonello Pomponio. Avanti Gianni per Tonino. Ciao Tonino, buonasera. Buonasera Gianni Pomponio. Sì, quindi non ho capito perché siete in FM. Perché ci sono persone che escono basso, invece con FM li sentiamo bene. È così. Però c'è più QRM, cara. Ah, sta a chiudere lo square, se te lo apro. A me quindi conosco di FM. Ma ti ascolto meglio, dai. E ci abbassa un po' lo squelto. E sto usando gli effetti 857D, figurati tu. Non sono andato male anch'io. Non ho altro, il decametrico, già lo sai. Quello qua di banda. Mi non esiste va che queste cose. Sto usando un baracchino, no, un baracchino, questo, quell'altro. Insomma, c'è un prezzo. Non mi visto lo so chi è, no, che dai. Beh, quando lo dico, vuole... Mi fanno... La sussa... Nel culetto, cazzo, mi fanno. Oh, beh. A un certo punto. Se no me lo tengo l'uso finché dura, dopodiché quando se lo compro non ce l'ho più, lo vaffanculo, ci va quello. E quando te lo vedi poi cosa fai? Se svintorno io solo questi baracchini da presinare. Quando me lo mi compro un'altra cosa, non so, ce ne sono tante cose, ci sono ragazze che per 50 euro mi fanno un lavoretto, non so, mi diverto, quello che è, per un mese e mezzo, e a voglia quando arriva a 500 euro. Io avete parlato di 50. Io so cosa ci devi prendere, lascia perdere, te ne dirò gotto se mi vai. Ah, ho capito, io lo so che devo prendermi, quindi cioè, a me va bene una cosa del genere, perché sono stufo di fare la spesa a piedi, hai capito? Quindi per quello che lo faccio, non per altro. Sì, ma Antonè, devi guardare bene, bene, bene, prima di fare un passo del genere. Controllare dall'A alla Z. Anch'io ho preso qualche fregatura da un mio collega. Perfetta, perfetta, ma ci preso un bel di là in nato. Vabbè, infatti prima la guardo, il discorso è quello, ho già chiesto. Hai capito? Gli metto la batteria, la guardo, la prego, eccetera, eccetera. Dopodiché, hai capito, non c'è problema. Scusate, amici. Sono curioso, mandami la foto su WhatsApp. Aspetta, mando, no? 2 minuti. Ehi, ripeti già. Ehi, oh, yeah, il salissimo. Guardate un tutto lì. La frega che sta per me, no? Ce l'ha poco. Ma guarda, sinceramente, io da che spendere anche 1000, 1500, 2000, 3000 euro non me ne ha fatto più un Kaiser, perché di navigaggio. A me mi costa una domanda, ma comanda a prendere il soldi, capito? Però ripeto, sono non tanto convinto per fino adesso, non lo so, vediamo. Non sai se hai ancora la passione, no? No, manca un casino che sento, dai, no, è importante, dite che tanto. E quello è così, e quello è colà. E poi, cioè, noi siamo quello che siamo. Io non mi vanto di essere sotto che non lo sono. Io mi reputo uguale a tutti qua. Quindi non ho la mania della grandezza, non ho la mania della... Io sono normale, punto. Cioè io entro poco già, perché entro poco. Anche in una televina non mi sento durante il giorno. Perché ho tanta quella cosa che fare. E per rilassarmi voglio fare un piccolo poesia con gli amici che sono in ruota. Basta, non sto lì attaccato al baracchino a ascoltare e cantare prima e dato, non mettere niente. Oggi pomeriggio sono entrato, ma no, boh. Oh, yeah.